Il terzo anello. Ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Manuela Mandracchia legge Il barone rampante di Italo Calvino. Introduzione di Giaba Scego. Calvino, una volta in un'intervista, ha detto una frase illuminante: scrivo perché scrivere non serve a nulla, e mentre scrivo penso che serve a tutto. Scrivo perché a 8 anni ho letto La Primula Rossa ed ho sempre tentato di imitarlo. Io direi che Calvino è riuscito benissimo a superare La Primula Rossa, ci ha regalato tanti sogni e ci ha regalato anche un percorso, perché tutti noi in qualche modo nella vita, nella nostra vita quotidiana, cerchiamo di imitare qualcuno, chi il padre, chi la madre, chi il maestro, chi un calciatore. Tutti abbiamo bisogno di esempi, soprattutto ne ha bisogno uno scrittore, dal più mediocre al più bravo ha bisogno di questo esempio, in qualcuno in qualche modo che creda ancora nelle parole, in questo mestiere suicida che, come ha detto una volta García Márquez, non paga nemmeno un pacchetto di sigarette. Ma chi era questo Italo Calvino? Molti lo conoscono, molti lo hanno letto, molti purtroppo non lo hanno letto. Spero che questa sia l'occasione di avvicinarsi a Calvino grazie alla bellissima voce di Manuela Mandracchia. Ecco, io credo che sia difficile riassumere una figura poliedrica in due parole. Calvino era tante cose, era un razionalista tenace e battagliero, uno scettico ironico, un neoilluminista inquieto, era aperto come pochi ai suoi tempi alle novità letterarie, poi leggeva veramente di tutto, dai fumetti agli americani, era stato tra i primi a leggere appunto la narrativa che veniva dagli Stati Uniti. Non è un caso che è nato a Cuba, anche se poi di Cuba non ne parlerà mai più, si è trasferito con i genitori in Liguria e ha fatto tantissime cose, ma proprio tante, tante per una vita che purtroppo è stata anche breve. Ha fatto la resistenza, ha fatto il giornalista, lo scrittore, è stato quasi un editore, uno stemma, un emblema della casa editrice Einaudi, ha scritto per l'Unità, ha aderito al Partito Comunista, lo ha anche ferocemente criticato. Ecco, chi lo ha letto lo conosce, chi non lo ha letto almeno ha sentito i titoli dei suoi libri, basta pensare al Sentiere dei Nidi di Ragno o al bellissimo Se una notte d'inverno un viaggiatore. Invece oggi, appunto, affronteremo un bellissimo libro di Calvino, Il barone rampante, che è una storia che è come poche è stata capace di raggiungere l'equilibrio tanto cercato sia dallo scrittore ma sia da tutti gli scrittori tra realtà e fantasia. Ecco, Calvino era un ricercatore dell'italiano, un ricercatore tenace, perché la sua lingua non è mai ovvia, è una ricerca faticosa, e quando ci avviciniamo a un testo di Calvino ci rendiamo conto che è un testo semplice, ma non è mai la spontaneità della comunicazione, cioè non cerca mai di ricalcare l'oralità quotidiana, ma cerca in qualche modo di essere meno approssimativo e meno casuale possibile, è una ricerca esatta della lingua italiana. Una volta, in un'altra intervista, appunto, Italo Calvino diceva: in Italia le cose semplici non vengono mai dette. Questa epidemia ha colpito, infatti, diceva Calvino, la nostra politica, i nostri giornali, la nostra burocrazia, e l'antilingua, l'imprecisione, la ridondanza, il barocchismo inutile. È una lingua oscura e imprecisa, quella dell'Italia di oggi, il contrario appunto di quello che cercava Calvino. E nel Barone Rampante vedremo questa lingua esatta, bella, buona, il vero italiano che anche tutti gli scrittori dovrebbero ricercare.